Falco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Stavo per dirvi che oggi parleremo di calcio. In realtà non parliamo di calcio, parliamo di follia. Parliamo di come si può diventare una leggenda gettando alle ortiche la propria stessa vita. Parliamo di un grande calciatore inglese che però è stato ricordato ed è passato alla storia come il più grande giocatore di calcio che nessuno ha mai visto. Vi spiegheremo il perché. Questa è la storia di Robin Friday. Oggi siamo abituati a un calcio che è uno spettacolo di gladiatori che in campo devono fare i conti non solo con gli avversari ma anche con le telecamere, con gli sponsor, con i procuratori. È uno sport che ha perso molta della sua poesia diventando negli anni una macchina stampa soldi dove quasi tutto viene esasperato, dove il calciatore perfetto è quello che oggi può fare anche il modello per qualche griff di moda, è quello che si pettina in un certo modo, quello che ha la cresta, quello che può partecipare a qualche reality, quello che gioca anche a pallone e magari è più noto per le sue esultanze che non per la sua tecnica. Bello per Balotelli, è buona. È buonissimo Mario Balotelli, palla sul destro, incrocio dei pali, 2-0, guardate, sembra una statua. Balotelli, un campione che si è un po' perso per strada tra macchine di lusso, gossip e figli che nascono in varie parti del mondo, riempie le pagine dei giornali sportivi più con quello che fa al di fuori del campo che con quello che fa dentro, però il tutto con una connotazione un po' glamour, mentre invece qui stiamo parlando di un signore, Robin Friday, che non ha mai giocato neanche una partita in Premier League, la Serie A inglese, ma che ha lasciato nei cuori di molti tifosi un vuoto veramente incolmabile. Andiamo con ordine, partiamo dall'inizio, da quando una coppia di gemelli, Robin e Tony Friday, vengono alla luce in una modesta casa di un sobborgo di Londra, ad Acton, a circa 10 km dal centro. Siamo nel 1952, Elisabetta II è appena diventata regina. So now, hereby, with one voice and consent of tongue and heart, publish and proclaim that the high and mighty Princess Elizabeth Alexandra Mary. Il padre dei gemelli Tony e Robin è un garzone di lavanderia, però è stato un giocatore di calcio, quindi trasmette quella passione ai figli e i gemelli Friday iniziano a giocare a pallone a 4 anni e addirittura all'età di 14 anni si trovano a giocare in una squadra locale a fianco del loro stesso padre. Sono gemelli, ma non sono uguali, perché Tony è studioso e espansivo, Robin invece è più timido, è introverso, non gli piace la scuola, in generale non gli piace la disciplina, non sopporta chi gli dice cosa deve fare, quello che non deve fare, non gli piace nulla. Gioca nel giovanili del Crystal Palace, poi passa al Queen's Park Rangers e addirittura al Chelsea, ma in nessuna di quelle squadre riesce a mantenere il posto, dato che ha un carattere ribelle e fa di tutto per rendersi antipatico, sia coi compagni che con l'allenatore. A 15 anni Robin Friday dice addio agli studi e inizia a frequentare le cosiddette cattive compagnie. Prima fa lo stuccatore, poi il lavavetri, però è incostante, si fa sempre cacciare sul lavoro e contemporaneamente comincia a fare uso di droghe. A 15 anni. E la sua vita sembra destinata a perdersi nel nulla, come tanti ragazzi della sua età che crescono in un sobborgo di Londra sempre più povero. Viene preso dalla polizia mentre ruba un autoradio, finisce nel riformatorio di Feltham all'età di 16 anni. Però qui succede qualcosa, un primo colpo d'ala, un colpo d'ala che lo spinge verso la squadra di calcio del riformatorio, ottenendo poi il permesso di allenarsi con la squadra del Reading, che allora gioca in terza divisione. Per lui è l'inizio di un percorso che lo renderà un mito quasi contro la sua stessa volontà. Oh. Button down. Carry this baggage out. Finito il periodo del riformatorio, Robin Friday fa una cosa che può sembrare normale. Conosce una ragazza e se ne innamora. Peccato però che ci siano alcuni dettagli che non rendono normale questa storia, anche perché se così fosse non ci troveremmo di fronte a un vero ribelle. Allora, intanto la ragazza è di colore e questo già non è una cosa ben vista in una comunità ancora non troppo abituata a quella integrazione razziale che oggi invece è il segreto del successo di Londra, che è la città multietnica. E inoltre Robin quella ragazza l'ha messa incinta. Bene, lui ha solo 17 anni. Ce n'è abbastanza per far sì che al loro inevitabile matrimonio non si presentino né i genitori di uno né quelli dell'altra. Robin Friday, naturalmente, se ne frega e va avanti per la sua strada. Robin era fatto così. Potevi dirgli di fare una cosa ed eri sicuro che lui avrebbe fatto esattamente l'opposto. Gli piacevano le donne, la droga e il calcio. Ma non c'era un ordine di priorità in queste tre cose. Le amava tutte allo stesso modo. Questa è la voce di Paolo Hewitt, che ha scritto un libro sulla vita di Robin Friday. Il libro lo ha scritto assieme a Paul McGigan, anche conosciuto come Gigsy, che è stato bassista e uno dei fondatori della band dei fratelli Gallagher, gli Oasis. Ma anche McGigan, come i fratelli Gallagher, è un grandissimo appassionato di calcio. Proprio per questo ha deciso di raccontare la storia di Robin Friday, dal momento che lo ha sempre considerato uno dei più grandi giocatori del calcio inglese. Majestic bay, never lose control. Does love remain? And now you are on hallowed ground. Saturday's hero out of. Robin Friday, neo marito 17enne, non cambia, continua a non prendere sul serio la vita, continua a drogarsi, a bere, si fa cacciare dai lavoretti che riesce a rimediare, poi trova posto in una squadra di un alto sobborgo di Londra, il Walthamstow, e riceve un ingaggio ridicolo, 10 sterline alla settimana. Almeno è un lavoro stabile, perché la maggior parte dei suoi compagni di squadra lavora per una ditta che asfalta le strade, così anche Friday viene assunto. Ma la cosa più importante è che comincia a masticare l'erba del campo da gioco in un modo un pochino più professionale. See, look at this, Rob. He leaves one, he leaves two for them. Takes on three, takes on four, beats the goalkeeper. You're just lost for words. He is just brilliant. 17 aprile del 71, Robin Friday segna il suo primo gol in una partita ufficiale, anche se siamo nel campionato semidilettantistico, però a dicembre cambia squadra, va a giocare nell'Ace, altro sobborgo di Londra molto vicino alla sua Acton, e aumenta l'ingaggio, arriviamo a 30 sterline settimanali. Aveva appena iniziato a giocare con la sua nuova squadra quando ebbe un incidente in cui rischiò seriamente la vita. Una mattina, strafatto di alcol e droga, salì sul tetto di casa sua. Improvvisamente cadde su un palo che gli perforò una natica entrando nello stomaco. Pochi centimetri avrebbe bucato un polmone uccidendolo. Invece Robin non solo si salvò, ma addirittura si tirò fuori da solo da quel palo piantato nel fianco, dimostrando ancora una volta che niente al mondo poteva fermarlo. Il falco e il gabbiano. Soli 3 mesi dall'infortunio che l'ha quasi ucciso, Robin Friday è di nuovo in campo. Quasi in campo, perché in una partita dell'Ace lui entra dopo 8 minuti dal fischio d'inizio, barcollando, è ubriaco perché quei minuti li ha trascorsi nel pub di fronte allo stadio. Sembra che non sia in grado di giocare. Bene, gli avversari lo sottovalutano e fanno un grosso errore, perché appena la palla gli capita a tiro, qualcosa di magico sta per accadere. Non appena la palla gli finì tra i piedi, Robin sembrò risvegliarsi e cominciò a correre, scartando uno dopo l'altro i difensori che gli venivano incontro. proprio come faceva a scuola quando dribblava i banchi con un'arancia tra i piedi. Il tiro è secco e violento e si insacca alle spalle di un portiere incredulo. Il gol è decisivo, l'Ace vince per 1-0. Robin è sempre il migliore in campo, dimostra di essere un calciatore di un altro livello, sprecato per le serie minori. L'Ace nel 72 avanza nei turni eliminatori di Coppa d'Inghilterra, si scontra contro il Reading, una squadra di quarta divisione, perde, ma la partita serve a Robin per farsi notare da Charles Hurley, il manager del Reading, che due anni dopo, nel 74, lo ingaggia per giocare. Sentiamo ancora Paolo Hewitt. Gli ci vollero due anni per decidersi. Da una parte, Hurley voleva comprare Friday perché aveva visto come si muoveva in campo e aveva capito di trovarsi di fronte a un campione. Ma dall'altra parte, le voci che giravano sul suo carattere litigioso e sul suo stile di vita piuttosto discutibile gli resero questa decisione difficile. Ma Hurley si convince e l'ormai 22enne Robin Friday inizia finalmente la sua carriera in quarta divisione, ma da professionista. Esordio il 27 gennaio 1974, in una partita che i giornali locali definiscono outstanding, eccezionale. Il ragazzo aveva iniziato a allenarsi di nuovo dopo che era stato allontanato perché durante un allenamento, spinto dalla carica agonistica, aveva azzoppato tre compagni di squadra. Una settimana dopo, il primo gol e la firma ufficiale del primo contratto, con una paga che era la metà di quello che guadagnava a stendere asfalto sulle strade. Se arrivate qui, non cercate di sfondare, non cercate di fare gli eroi per segnare a tutti i costi. Il centrattacco lo voglio qui e a lui dovete passare, passare, passare sempre. Fate correre il pallone, non correte voi, non cercate di corrergli dietro, non siete in condizioni di correre per 90 minuti, credete a me. Questo vale soprattutto per le ali, se potete passare al centro, non ci andate voi, cercate il calcio d'angolo. Rallentare il gioco va a vostro vantaggio, il che significa che se... Mi dia il gesso. Colby, gli dica di passarmi il pallone qui, che io poi faccio così, così, così, così, così, così, gol. Passatemi la palla e poi correte a abbracciarmi, è quello che si racconta di Sepelé. Questo è il dialogo del film Fuga per la vittoria, per esempio. Beh, quello che accade a Robin Friday nella sua terza partita con Reading ha qualcosa di analogo, perché recupera la palla, supera 1-1 i quattro difensori dell'Exeter City e poi fulmina il portiere con un rasoterra imprendibile. Una giocata assolutamente magica e Friday diventa l'idolo dei tifosi. They hurt you at home. They hit you at school. They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Robin Friday è un lottatore, è uno che non molla mai. In tutta la sua carriera non ha mai indossato i parastinchi e non ha mai neanche tirato indietro la gamba. Durante una partita viene picchiato duro da un difensore, rimane fuori dal campo per 5 minuti, rientra e segna 2 gol, vincendo la partita da solo. Questo è Robin Friday. Impara a prendere le botte dagli avversari, che sono sempre più impauriti dalle sue incursioni, però impara anche a darle, collezionando a fine stagione ben 7 cartellini rossi. E se si pensa che è un attaccante e di solito le espulsioni le colleziona i difensori, si capisce bene quale sia il suo carattere. I tifosi lo osannano, lui vive una vita spericolata come quelle dei film, direbbe qualcuno, ma spericolata sul serio, una vita fatta di whisky, di donne, tavoli dei pub, poi viene cacciato dai pub e si trasferisce nei night club dove continua a bere fino all'alba. Una volta si presenta in un locale con addosso un soprabito, degli stivali, si piazza al centro della pista, si toglie il soprabito, balla completamente nudo, fa cose di questo genere, intanto in campo però si fa rispettare. Segna 4 gol nella prima stagione, 18 nella seconda e 21 nella terza. Grazie al suo modo di giocare, ai gol spettacolari, ai dribbling ubriacanti, Robin Friday piano piano conquista la fiducia dei suoi compagni di squadra, che galvanizzati dalla sua presenza giocano meglio e ne sopportano le bravate. Così alla fine del campionato il Reading finisce in sesta posizione, migliorando il piazzamento dell'anno precedente. Anche la società comincia a tollerarlo, però l'anno successivo salta completamente tutto il periodo di preparazione atletica. Nessuno sa dove sia finito. Si dice in una comunità hippie, alla prima amichevole di precampionato lui si presenta come se niente fosse, entra in campo e gioca meglio di tutti quei suoi compagni. I tifosi lo hanno soprannominato il sesto Beatle. Restate con noi e vi spiegheremo perché. Torniamo tra poco. E il Gabbiano. Nella puntata di oggi stiamo raccontando la folle, tragica e leggendaria epopea di Robin Friday, il più grande calciatore che nessuno ha mai visto. Ancora oggi chi ha avuto il privilegio di assistere a una delle sue partite lo ricorda come uno dei pochi che abbia lasciato un'impronta indelebile nella storia del calcio inglese. Viene soprannominato il sesto Beatle in omaggio a un altro grandissimo giocatore inglese, anche lui genio e sregolatezza, che si guadagnò l'appellativo di quinto Beatle, che era George Best. Ogni cosa ha il suo tempo. E c'è un tempo per ogni azione sotto il sole. Un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per seminare e un tempo per raccogliere ciò che è stato seminato. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per distruggere e un tempo per edificare. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per soffrire e un tempo per ballare. Un tempo per conservare e un tempo per buttare via. Everything turns and turns. There is a season turns. Questa poesia, che in realtà è una elaborazione di un brano preso dal testo sacro dell'Ecclesiaste e che sentite in sottofondo in una canzone dei Byrds, è un inno alla vita che alterna momenti negativi a momenti positivi. Bene, Robin Friday vive una vita in bilico tra la gloria e l'autodistruzione. Per lui è tutto un gioco, è una sfida che a volte si può affrontare solo con la violenza. In campo non si fa volere bene neanche dai suoi compagni di squadra, che lo considerano un matto a causa delle bravate, che alterna gol bellissimi, come quando fa fermare l'autobus della squadra nei pressi di un cimitero, scavalca e torna portando la statua di un angelo di marmo presa da una tomba per metterla nel posto a sedere a fianco dell'allenatore, o come quando attraversa la hall di un hotel con in braccio un cigno preso dal laghetto antistante. Quella volta che baciò il poliziotto fu pazzesco. Robin aveva appena segnato un gol incredibile all'ultimo minuto e, preso dall'entusiasmo, corse ad abbracciare un poliziotto e lo baciò. Il poliziotto rimase impassibile e Robin, negli spogliatoi, disse ai suoi compagni di squadra: «Ma vi rendete conto? Ho baciato un poliziotto. Io che i poliziotti li ho sempre odiati». A parlare è sempre Paolo Hewitt, l'autore del libro su Robin Friday, grazie al quale conosciamo un altro aneddoto della sua vita pazzesca. Nella stagione 75-76 il Reading, grazie ai 21 gol segnati, guadagna la promozione in terza divisione. Friday è l'idolo dei suoi tifosi e questo amore incontrastato lo ha guadagnato sul campo, segnando reti importanti, talvolta spettacolari, come quella volta contro il Tranmere Rovers, con un'azione che parte dal portiere e con un lungo lancio arriva la palla a lui. Lui si coordina in mezza rovesciata, spalle alla porta, colpisce la palla che dopo un volo di 30 metri si infila all'incrocio dei pali. Il pubblico si alza in piedi, acclama il suo eroe. Unbelievable, titoleranno i giornali. Hey, hey, hey, hey. A million miles from home. in mezza rovesciata, a 30 metri dalla porta, al volo. Beh, lo stesso arbitro a fine partita si avvicina a Robin Friday per congratularsi. Gli dice che non gli era mai capitato di vedere un gol così bello. E Friday, col suo atteggiamento strafottente, gli risponde: davvero? E allora dovresti venire a vedermi giocare un po' più spesso, perché io di gol così ne faccio ogni domenica. Questo è Robin Friday, il giocatore che interessa anche all'Arsenal, ma l'Arsenal non lo compra perché lo ritiene inaffidabile e ingestibile fuori dal campo. Robin intanto ha divorziato dalla prima moglie e si risposa con Liza, una ragazza di Reading. Il loro è un matrimonio memorabile. E com'è andato ce lo racconta la stessa Liza. Robin era troppo divertente. Io ero in chiesa ad aspettare lui e lui era sui gradini a rollarsi una canna. Poi al banchetto scorrevano litri di whisky e birra e tutti gli invitati erano ubriachi oppure strafatti di marijuana. Alla fine distrussero il locale e ci rubarono anche alcuni regali. È stata la cosa più divertente che io abbia mai visto. La promozione del Reading non fa bene a Robin Friday, perché più cresci e più devi mettere la testa a posto, e lui non ci sta. Diventa incostante negli allenamenti, gioca poche partite, si infortuna, non raggiunge mai la forza fisica adatta a giocare in modo convincente. Alla fine Charlie Hurley, che per tanto tempo l'ha protetto, deve cederlo al Cardiff in Galles per 28.000 sterline. È una svendita e il calciatore ormai è ingestibile. Solo un anno prima il Cardiff aveva fatto un'offerta di 50.000 sterline e l'offerta era stata rifiutata. Friday non vuole allontanarsi da Londra, alla fine costretto a partire. Naturalmente viaggia in treno senza biglietto e si presenta alla squadra con una multa da pagare, il classico stile Friday. Robin voleva tornare a Reading, odiava il Galles e questo non fece altro che peggiorare il suo carattere e far crescere la sua rabbia che sfogava sul campo di gioco. Una volta contro il Fulham si trovò di fronte Bobby Moore in persona, una colonna della nazionale. Eppure lui lo ridicolizzò strizzandogli i testicoli durante un calcio d'angolo. Neanch'io, giocando una partita a pallone, ho avuto l'onore di avere i testicoli strizzati da Paul Gascoigne. Sono momenti che non si dimenticano. Comunque siamo a Cardiff, sono tutti entusiasti del nuovo acquisto. Lì ci mette poco lui a farsi volere bene. Tutti conoscono le sue gesta, come quando sale sugli spalti durante una partita e beve una birra con uno dei tifosi. Avevo sete, dice all'arbitro che lo espelle. Ma per il pubblico di Cardiff, Robin Friday ha riservato i pezzi migliori del suo repertorio. Aprile 77, il Cardiff gioca una stagione pessima, in zona retrocessione. Quella domenica incontra il Luton, che invece sta cavalcando verso la promozione. Robin Friday vive quella partita con molta frustrazione, soprattutto perché non riesce a segnare. In porta c'è Alexis, che è un inglese con genitori jugoslavi, è un osso duro e lo scontro fisico tra i due è continuo. Alla fine Friday, innervosito dal comportamento del portiere, lo colpisce al viso. Viene ammonito, ma porge la mano al portiere per scusarsi. Alexis, invece di accettare le scuse, respinge con forza la mano e lo spintona facendolo cadere. Questi atteggiamenti non piacevano a Robin. Un gesto così non poteva far altro che scatenare una reazione assolutamente imprevedibile. Spinto da una rabbia incontenibile, Friday si rialza, insegue il difensore, gli ruba il pallone senza commettere fallo, punta al portiere avversario. Fa una finta, Alexis cade a terra lasciando via libera Robin, che in tutta tranquillità deposita il pallone in rete. Un gol magnifico che però Robin festeggia mostrando con la mano al portiere la V in segno di vittoria, ma la V girata dalla parte opposta, che in Inghilterra ha un significato molto offensivo. Insomma, manda, diciamo, a quel paese Alexis, lo umilia davanti a tutto lo stadio. Quel gesto, immortalato in una foto, diventa l'immagine simbolo di Robin Friday e diventa anche la copertina di un disco dei Super Furry Animals dal titolo emblematico The Man Don't Give a Fuck. Nel nell'ottobre 1977 Robin Friday è reduce da una serie di brutte partite, ha avuto un virus, ha perso 10 kg, ha compromesso definitivamente la sua carriera. Sembra non arrivare mai il recupero e questo non fa che innervosirlo maggiormente. Inoltre il suo fisico è debilitato dall'abuso di alcol e di droghe. Durante una partita si scontra con il suo rivale diretto, lo stopper Lorenzen. Dopo l'ennesimo fallo ricevuto, Robin Friday non evita il contatto. Lo colpisce violentemente con un calcio al viso. Viene espulso, ma non contento entra nello spogliatoio avversario, prende la borsa di Lorenzen e la utilizza come gabinetto per rifiuti solidi. È la goccia che fa traboccare il vaso, la società lo mette fuori rosa e a soli 25 anni Robin Friday si ritira dall'attività agonistica. Ne ho abbastanza di sentire persone dirmi cosa devo o cosa non devo fare, e dice ai manager del Cardiff, torna nel sobborgo dove è nato, ad Acton. Torna alla vita normale, che vuol dire stendere asfalto, ma vuol dire anche bere, drogarsi, senza rendere conto a nessuno. Negli anni successivi viene contattato da altre squadre, e parliamo di Nottingham Forest, di Manchester United, ma Robin Friday non vuole rinunciare alla sua libertà. Mike Evans, il nuovo manager del Reading, gli fece vedere una lista di 1000 firme raccolte dai tifosi che volevano vederlo ancora in campo, dicendogli che se avesse fatto un po' di sacrifici e se si fosse allenato con costanza, in 2 o 3 anni avrebbe potuto anche arrivare in nazionale. Friday lo guardò negli occhi e gli rispose: guardati, ho la metà dei tuoi anni e ho già vissuto il doppio di te. Paolo Hewitt, che avete appena sentito, sta lavorando alla produzione di un film che racconterà la vita di Robin Friday. Una vita che si chiude il 22 dicembre del 1990 per un arresto cardiaco. Robin ha solo 38 anni. La versione ufficiale parla di infarto, ma sono molti a credere che in realtà il tutto sia stato la conseguenza di una overdose di eroina. Robin Friday muore così in una casa popolare di Acton dopo aver vissuto gli ultimi 13 anni della sua vita fuori e dentro la prigione, sempre in guerra con se stesso. Un uomo che non è diventato un campione solo perché ha voluto che andasse così. Uno spirito libero che nel 1977 in un'intervista lascia il suo testamento morale. Sul campo odio tutti gli avversari, non mi importa niente di nessuno. La gente pensa che io sia pazzo, lunatico. Ma io sono solo un vincente. Robin Friday, la leggenda che ha distrutto la sua vita invece che diventare il più grande giocatore del Regno Unito. Storie di chi è riuscito, di chi ha tentato, di chi ha avuto cadute, risalite, di chi è andato verso il cielo e di chi si è inabissato tra il fango e le stelle, perché ciascuno di noi nella sua vita può dare un colpo d'ala che lo porta a volare in alto, magari una volta sola, ma può volare in alto come il falco o come il gabbiano. Se volete mandarci idee, commenti e storie sulle quali volete che noi ci si soffermi, fatelo al falcoelgabbiano@radio24.it oppure su Facebook, Twitter, se volete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti.